avete visto è ricorrente durante la settimana e che continueremo così, però spostando il più possibile laddove sarà necessario in biblioteca, perché la vita con una cosa riusciamo a stare un po' più comodi, anche noi che siamo venuti a spedirci da un piano all'altro e pensavamo proprio di rivedere anche il nostro programma in questa funzione qua, se no prossimamente faremo qualche ritocco. Le cartoline ci sono sul sito, anche le notizie. Chi invece volesse essere informato costantemente con le nostre newsletter, basta che si iscriva alla biblioteca, è tutto gratis, oppure se è già iscritto alla Civica o un'altra biblioteca del sistema, basta solo che richieda l'attivazione anche al nostro servizio, e quindi poi è costantemente in contatto e aggiornato su quello che facciamo e proponiamo. Lascio la parola ai nostri due ospiti, che ringrazio ancora, e una buona serata a tutti voi. Allora, ho il piacere, veramente il grande piacere di presentare questa mia carissima amica, Volta, e il suo ultimo libro. Il libro è uscito in gennaio di quest'anno e lei da momento sta facendo moltissimi altri lavori, però voglio fare un'osservazione di base, cominciare con un'osservazione. Tu hai detto che avete portato tutti questi libri, molto interessanti, eccetera, che sono libri sulla memoria. E quello che riguarda il lavoro, cioè il libro della vostra, più che di memoria, si tratta di ricordo. E qui sarei molto precisa, perché memoria, il greco, l'UNESCO, naturalmente lo sapete, cioè questo far venire questi elementi importanti, eccetera, di cui per esempio vivi in parola la memoria del nostro computer, che io perdo continuamente, quella la perdo continuamente, perché bisogna tutto a parte delle cose innominabili, non le dico. Invece mi interessa di più quello che ricorda la parola ricordo, che è portare al cuore, cioè far ritornare proprio al cuore. E l'immagine esatta della mia amica scrittrice e traduttrice, soprattutto, oltre a tutto, non soprattutto, oltre a tutto, anche se lei dice, soprattutto, dico oltre a tutto, fotografa, è quello di fermare nel suo lavoro di fotografia. Lei fa delle fotografie stupende, del quale vi parlerà, che le farò una domanda precisa a questo livello, ma fa proprio questo lavoro di riportare a questi momenti, cioè di fermare questi ricordi attraverso il flash, attraverso l'immagine fotografica. Allora, questo libro che a me è piaciuto molto, mi sta più chiara, va spiegato sotto due tre. Allora, chi è Volta del Cibro? Che cosa succede? Succede che nella sua grandissima esperienza e anche nella sua cultura, lei ha ricevuto una bellissima onorificenza, è diventata Staatsschreiberin, cioè ambasciatrice della scrittura, roba del genere, diciamola così, a Pilsen, che allora nel 1915, nel 15 appunto, era la capitale europea della cultura, ed è stata circa cinque mesi a Pilsen. Pilsen che che c'era moglie col piccolino qui, e allora facciamo un altro anche lì. Ecco, allora, se non facciamo grandi saluti, perché qui non si vede niente, siete tutti trasparenti, veramente, non qui a lì, adesso vedo che c'è, ciao, ma lo vedo adesso, prima non lo capisce. Ma noi non ci vediamo, siamo accecati qua, comunque, è lo stesso. Allora vi volevo dire, lei sta questi 5 mesi a Pizze e girando per la città, nella memoria che è anche naturalmente tutti, non tutti, alcuni, gli ultimi due dei suoi libri, quello sulla Boemia, Andate e Ritorno, e quest'ultimo è stato in classe, sono memorie del suo paese d'origine, la Boemia. dalla Boemia originaria, più in Germania, eccetera. C'è anche tutto questo, anche il suo personale peregrinaggio non terato, si trova a Pilsen e a Pilsen va a perlustrare, a guardare questa città, molto molto bella, non è soltanto importante per, naturalmente per la birra, non è solo questo la tua importanza, no? Assolutamente no. Comunque va girando per questa città e si trova. Questa architettura stupenda, c'è un suo articolo, questo mestre Antonini, sul Tagestein, con delle bellissime fotografie che hai dato tu probabilmente, sì, sono fotografie proprio della strada di Pilsen, il cimitero già è un po' più semplice, ma sì, ecco. Come ebraico cimitero, sì. Ecco, sì, ma volevo dire appunto che gira per questa città e si trova davanti a questi bellissimi, a questi importanti palazzi che contengono delle gemme preziose. Le gemme preziose che contengono questi palazzi, e lei lo dice, rispetto all'esteriore è veramente di grande importanza, però la loro importanza non è data da quello che è fuori, ma più altro quello che è dentro, sono tutte le architetture, cioè gli interventi architettonici di un grandissimo architetto del primo Novecento che è Adolf Loos. Naturalmente Adolf Loos che nasce nella fine dell'Ottocento, nell'87 se non sbaglio, con il 33, lo giuro, perché io con le date sono un mostro, però sì, mi sembra di sì, nel 70 forse, muore nel 33, questo lo so con certezza. Ecco. E va a ricerca di questi bellissimi interni, questi bellissimi. Io ho guardato anche in internet e anche in internet portano moltissimi di questi arredamenti, di questa novità, veramente novità dal punto di vista architettonico, della cura del particolare, della cura di quello che è l'interno delle cose. Molto, sì, molto importante questa cosa qui, perché si avvicina al discorso che naturalmente si fa nella scala di Clara, che è il discorso di questa alta borghesia di Pilsen, che è un'alta borghesia di origine ebraica, che come spesso succede, come succede, le Wolfgang ne parla anche nel suo libro, si preoccupa più di quello che c'è dentro che di quello che c'è fuori, cioè l'esterno sono sempre elegantemente, anche quando lei parla di se stessa, la Clara, o si parla dei vestiti dell'epoca, elegantemente vestita, ma con quella modestia e con quella modestia, non è la parola giusta, quel rigore forse, ecco, che fa parte di una cultura particolare. Comunque va alla ricerca di questi bellissimi elementi e arriva a trovare il primo committente, uno dei primi, forse il primo, non lo so, tra i primi committenti di questo architetto viennese boemo, che è appunto ceco o boemo, non so dico male, sì, vabbè, comunque, sì, e che è Adolf Loos, ecco, è questo Beck, questa famiglia Beck. E qui, naturalmente, Wolfstadt incontra la figura che è la protagonista di questo suo libro, la figura di Clara, poi Clea, Beck, Loosova, sì, come viene chiamata moglie di Loos, che appunto incontra questo grande architetto, 30, parecchi anni, più di 30 anni più vecchio di lei, si incontrano e diventa la terza moglie di questo grandissimo architetto. È un matrimonio che dura un periodo abbastanza breve, però è un matrimonio che dà a questa giovane, veramente giovane donna, la possibilità di muoversi nel grande mondo europeo dell'epoca. Cioè va, gira, viene in Italia, va in Francia, ha moltissimi incontri con gli agenti più grandi e più importanti dell'epoca. Perché ha questi incontri, oltre al fatto di essere la moglie di questo grandissimo architetto? Perché lei ha di nuovo, e questa è di nuovo una similitudine con Wolfstadt, ha una grande passione, è una grande fotografa. È una fotografa, ha studiato a Vienna fotografia e appunto lei è specializzata, almeno così si state purtroppo consigliate come tutto il resto del suo patrimonio, quando è stata praticamente considerata era ebrea, ha dovuto fuggire eccetera eccetera. Comunque dico, sono soprattutto ritratti, uno dei ritratti forse più interessanti, uno fra i ritratti più interessanti è sicuramente quello di Alvaro Plus, non solo il ritratto ma anche il libro che lei ha scritto sulla vita privata di questo grandissimo architetto. È una fotografia che mi è rimasta molto impressa, io l'ho visto soltanto attraverso appunto internet, questa fotografia di questo gabinetto di cui tu parli, però di questo gabinetto come lo dici tu, c'è questo gabinetto che Ross molto spesso mette nei suoi andamenti, e lui ha, e questo mi ha impressionato, questo cornetto acustico, perché ormai è quasi sordo. Comunque succedono poi le cose come succedono, lei. E dicevo, e torno su quello che volevo dire, questo libro è fatto secondo me proprio in questa maniera, sono come dei momenti, delle immagini fotografiche nei quali viene descritta la vita, l'ultimo pezzo di vita di questa ragazza, con riferimenti anche a prima, quello che è stato prima, e la sua morte. E naturalmente che cosa succede? Succede che lei è proprio è nata nel 1904, dunque quando c'è questo periodo terrificante di cui si parlava prima, appunto impegno razziale contro le razze diverse. Siamo gentili oggi, ecco, lei è in mezzo a questa cosa, e dalla grande famiglia dei Beck, dalla grande famiglia di Pilsen, viene praticamente, viene portata a Riga, prima, dopo a Riga vive una vita miserabile, lei e la madre, il padre è già morto in questo periodo, lei, la madre, la sorella è anche già morta, sì, sì, la madre con lei. Cioè, il padre muore nel 36, sì. La sorella si suicida nel 38, probabilmente era una donna particolarmente sensibile che avvertiva ciò che stava avvenendo, sì. E poi lei e la madre vanno a Praga, e a Praga, da Praga vengono portate. Cioè, si sa di più della Clara che non della madre. Sì. Ecco, grazie di questo, scusami, adesso poi ti lascio subito la parola. Poi sta a Praga in un periodo non tanto lungo lì, le due signore della grande borghesia, della borghesia in Pilsen, sono ridotte a doversi arrabattare per tirare insieme due soldi per mangiare. Questo si vede, leggeremo poi alcuni capitoli di questo libro. E poi a un certo punto le viene detto, questa è una delle cose che trovo più terribili e anche più toccanti del libro, viene detto a questo gruppo di ebrei, in questo momento che sono a Praga, viene detto loro che verranno portati in una specie di paradiso, il luogo dove tutti gli ebrei saranno belli, avranno una loro possibilità di vivere una vita deve essere vissuta, eccetera. E questo luogo meraviglioso è descritto come chissà che cosa, è addirittura la fortezza di Teresa Stadt, una fortezza della quale c'è di nuovo una specie di lavoro che poi di quale parlerò, il lavoro fotografico della Volkswagen, è proprio questo, di dare prima di tutto, io non vedo che cosa hanno messo qui. Qui sono le figure di questi quattro personaggi, ma questo è, sì, invece proprio sul discorso della fotografia, è il primo fotografo, come nel libro, c'è l'immagine della storia con un fondo, poi il fondo viene cancellato e poi viene l'obiettivo anche sul personaggio principale. Ecco, se tu fai vedere un attimo questa variazione delle tue fotografie, penso che potrebbe essere molto interessante per capire come è fatto questo libro, come viene articolato non solo la fotografia, ma anche il libro. Fai pure vedere, quello è l'immagine. Allora io parto da questa immagine e se faccio dei parallelismi con la scrittura, questo è il momento in cui faccio ricerche, raccolgo ricerche, raccolgo tutto quello che posso trovare. Poi in un secondo momento scremo le informazioni che ho avuto, perché per il momento quando si fanno delle ricerche li butto nel computer, li metto su blocchetti, li trovo dappertutto, però questo qui è il momento in cui comincio a restringere il campo delle ricerche. Per poi, alla fine, arrivare a questo. Io nella mia scrittura anche vorrei arrivare a questo, cioè non vorrei che la mia scrittura fosse un po' anonima, descrittiva, che descrive soltanto, ma vorrei che desse un impatto forte, che poi se mancano delle informazioni se le deve anche cercare un po' il lettore. Cioè non voglio prima spiegare tutto ciò che dico. Perciò queste sono le tre fasi anche che amo anche nella fotografia, queste tre fasi. E c'è un altro esempio, però la stessa cosa, qui una, sono sempre foto tra le Alice, qui una vecchia stazione che diventava poi fabbrica di cultura, perciò qui c'è un po' di tutto, c'è l'ingegnere, eccetera, tolgo il dolore, perciò distingo già il campo di ricerca e alla fine rimane qui il ritratto e nella scrittura è quello che a me sembra più importante, perciò c'è sempre sì, questo però è estremamente interessante perché così si svolge anche un po' come tu dicevi anche la scrittura, cioè viene tolto invece che aggiunto. E un'altra cosa che volevo dire a proposito della memoria, sono due verbi molto forti che usiamo sempre riguardo alla memoria e al fatto appunto della Shoah in questo caso, che sono due verbi che secondo me, come ricordo e memoria sono due cose diverse, due cose anche diverse sono dimenticare e scordare. Allora dimenticare è proprio la smutare, cioè togliere la... ecco, la mia memoria del computer mi fa assolutamente, mi dimentica tutto per tutta via. Invece scordare è di nuovo questa radice di cuore, come ricordo, c'è dentro il cuore, cioè è sempre molto più attaccato e molto più vicino a quanto è. Qui, con queste fotografie, con queste cose, non c'è niente da scordare, tanto che succede che a un certo punto alla mia amica Wolfgang viene mandata questa fotografia, che credo che sia lì, almeno penso, che sia questa fotografia di questi personaggi, che sono addirittura una famiglia ebrea che sicuramente è stata dello stesso treno dove 999 persone sono portate da da questo posto, da questa fortezza, fino a Riga. E a Riga poi. Sì, non è corretto. Cioè, allora racconto un po' la storia. Sì, giorni mi era venuto un po' un dubbio e ne ho parlato con Bruna, cioè che diritto ho io a immettermi a frugare, a cercare nella vita di questa donna per fare un libro che mi dà anche un po' di notorietà, mi dà un po' di importanza. Invece sia lei che io, questo dubbio ho scritto anche a un cosiddetto amico di Facebook, non lo conosco personalmente, un italiano, che si interessa molto alla Shoah e alla Boemia, per quello probabilmente lui aveva anche letto il libro, e mi manda questa foto della madre con i due bambini. E con sul retro una scritta che lui non riusciva a decifrare, in cieco, la mando al mio amico cieco, e lui mi dice: allora, carissimo Max, e Max risulta poi essere il marito di lei, il padre dei bambini, ti mandiamo questa foto così sei un po' meno triste e speriamo di trovarci presto in salute. E solo ieri o l'altro ieri siamo venuti a poi sapere, perché uno trova una cosa e non trova l'altra, che questo Max era ebreo, benestante della fabbrica in un paese, in una cittadina della Boemia meridionale, la fabbrica negli anni 30, questo non te l'ho neanche raccontato, è andata, insomma, andata in crisi. E lui era il capo della comunità ebraica di questa cittadina. E se no forse in quanto tale o per altri motivi politici è stato arrestato, e la madre, la moglie, gli ha mandato questa foto appunto in prigione. Come dopo dalla prigione è arrivato nei vari musei, nelle varie istituzioni che si occupano delle ricerche, non lo so, ma lo veniamo a sapere anche questo. Ma appunto la coincidenza che la cognata della donna, cioè una delle sorelle del marito, si trovava sullo stesso treno di Clara Beck, perché tante cose non si sanno, però i treni, i numeri delle persone si sanno con una precisione quasi terribile, maniacale, terribile. E lei, questa altra, era sullo stesso treno, e naturalmente tutte queste mille persone, perché erano sempre, fino a un certo punto, sempre mille persone nei treni, sono stati uccisi poi vicino a Riga. Ecco, questa è la storia di questo che mi tocca il momento, e anche di questo signore, il ragazzo, non so, mi ha detto: no, per piacere, avevi tutto il diritto di scrivere questo libro, anzi, se dice così, avessi la capacità di fare, farei anche un libro su questa famiglia. E la stessa cosa l'ha detto l'altra sera Piero Angela, ha fatto una trasmissione sulla Shoah, e anche lui non mi ricorda esattamente la frase, insomma dice: più che possiamo raccontare, dobbiamo raccontare. Purtroppo queste sono cose estremamente giuste, fino a che abbiamo la possibilità dobbiamo raccontare, perché appunto il ricordo e la memoria non vanno tutto perduti. Ma un'altra cosa importante che non ho detto, e che è il titolo di questo libro, appunto, le scarpe di Clara. Queste scarpe di Clara diventano, come le fotografie rimangono per attrazione, il simbolo proprio di tutta la vita di questa donna, di questa giovane donna, che ha porta queste scarpe, che erano scarpe famosissime al principio del Novecento, queste scarpe di cuoio raffinato, eccetera, con una punta rotonda. Le ho viste perché le portava anche mia madre, proprio io le ho proprio viste, perché sono vecchia abbastanza io per poterle riviste, ecco. E avevano un cinturino, e il cinturino veniva chiuso da un bottone, quello di mia madre era d'argento, il bottone era d'argento, questo qui infatti tu invece da cuore, per carità, e quello di mia mamma era nero, questo è un marrone. Abbiamo delle differenze, con un tacco abbastanza quadrato, abbastanza non alto, con un tacco comodo. Queste scarpe che Luz, racconta Clara, regala a lei in una delle sue loro viaggi, a casa, credo, e comunque regala queste scarpe, per lei sono un simbolo anche dopo la separazione del marito, eccetera, e se le porta dappertutto, tanto che in questo ultimo momento, questo passaggio da Praga a Riga praticamente, ecco, lei che diceva avrei potuto mettere delle cose più adatte ad un posto dove ci portano, che sembrava che li portassero in un posto chissà che meraviglioso, no, questo non è da Praga, siamo già la Tenesia è stata a Riga, lei porta queste scarpe e con queste scarpe fa gli ultimi passi della neve per arrivare in questo bosco, nel quale sono scavate le fosse dove vengono poi tutti quanti uccisi e Adesso a questo punto io lascerei prima di tutto ancora spazio al discorso fotografico, perché mi sembra estremamente importante, numero uno. Il numero due vorrei leggere, avevamo sperato che ci fosse una lettrice, ma questa lettrice non poteva esserci, perciò leggeremo a turno male, io e te, facciamo quello che possiamo. E comincerei io a leggere un primo pezzo e poi vi lascio parlare. Dunque, e parlando delle scarpe, il cinturino in pelle è spezzato, brindellato, il piccolo bottone rotondo in avorio strappato, il cuoio dell'ottomale graffiato, bucato, sporco, infangato, rotto per la camminata della neve. Sono 30-35 gradi sotto zero e sta ancora nevicando. Cerca di mettere i piedi nell'ombra della tomba della crociera, non è facile. Le gambe le cedono, il bianco tutto attorno la cieca, neve, ghiaccio e vento e gelido e nessun riparo tra i pini piegati dalla neve. Questo è l'inizio e anche la fine. Però anche un'altra cosa che volevo dire prima di leggere avanti, una cosa molto interessante che fa la Wolfram in generale nei suoi libri, in questo anche in particolare, lei racconta come questa famosa fortezza, questa famosa fortezza costruita da Francesco Giuseppe, eccetera, eccetera, Teresista, dove mandano questi ebrei, che poi non ci stanno più, che questo li portano ad uccidere, eccetera, eccetera, viene raccontato come un luogo, non dico di delizia, ma quasi, sì, un luogo dove si sta molto bene. Ma qui, appunto di Volta, la Clara ricorda di esserci stata, prima, molto prima naturalmente, cioè anni prima di questa terribile avventura, di essere stata con la sorella e di avere ammirato questa fortezza, no? Che poi è la fortezza dell'ultimo periodo della sua vita, dove, e qui c'è anche tutta la storia che tu raccontavi, la Erika, non so chi mi raccontava, tu forse, di questo musicista boemo, ecco, che era Bolzano. Ma comunque di questi racconti sulla musica e sui musicisti famosi che suonavano anche a Teresista è stato diventato un po' lo slogan di come stavano male, avevano anche concerti, avevano tutto, immaginatevi che razza di discorso c'è sotto tutto questo. Adesso io vorrei appunto aggiungere una cosa, perché oggi o ieri ho letto una frase, non so di chi, dove dice: qui a Teresista è tutto un inganno. Cioè hanno chiamato, in Teresista erano internati, diciamo, molti intellettuali musicisti, cioè la creme intellettuale degli ebrei europei quasi. E non era ai tempi di Clara, lei è arrivata un po' prima, questo come si può dire, tempi un po' gloriosi di Teresista, gloriosi che tra virgolette sono stati nel 43-44, e sono stati così bravi, sempre tra virgolette, nell'ingannare le persone che mi pare nel 44 il governo danese, che non capiva, voleva sapere dove andarono a finire gli ebrei deportati dalla Danimarca, e hanno mandato una commissione internazionale della Croce Rossa. Allora in pochissimo tempo Teresista, una fortezza con baracche dove si partiva la fame e il freddo e si moriva, non si veniva ammazzati attraverso il cammino, però si moriva ugualmente, e l'hanno trasformato in pochissime settimane in una cittadina fiorente, con negozi, con viali pieni di fiori, di alberi, tanto che la Commissione Internazionale della Croce Rossa ha detto: ma cosa hanno da lamentarsi, è bellissima, stanno bene. Perciò era tutto il canno. No, certo. Io penso che a questo punto dia ancora tutto quello che vuoi dire, quello che non ho detto, che ho naturalmente tralasciato, e poi leggiamo un po' del tuo libro. Ecco, certo, volete fare qualche cosa? interessanti che se vedete poi il libro, la pagina 19, è quanto poco da mangiare avevano, questo è ancora il periodo di Prada, naturalmente. E qui dice 300, sono tutti capitoli, e questo di nuovo, per quello che ripeto, questo paragone tra testo e fotografia. Ci sono proprio dei momenti così, degli scatti. 300 grammi di pane, un po' di mandarina, una mattina un mezzo di cioccolato di caffè, per pranzo un'acqua con una dose mezza di natura, delle volte con un pezzo di patata. Era questo il preciso piano nutrizionale elaborato dai comandanti del campo di Terezin Stata. Non si doveva superare 900 calorie a persona, calcolate dagli uffici nazisti di Berlino e stabilite per tutta la rete dei campi di concentramento che stavano sorgendo fin dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale nei territori tedeschi e di occupazione tedesca in Europa orientale. Questo mi sembrava anche estremamente interessante, se pensate a che cosa, in fondo, che cosa voleva dire questo anche. Comunque, un'altra cosa importante di questo interesse di Stato è di nuovo, questo come il nostro campo di Bolzano, era un campo di transito, non era un campo, come diceva, non era come Auschwitz dove c'erano i forni crematori, eccetera, era un campo considerato di transito. Adesso io continuerei con queste letture che mi sembrano interessanti. Vuoi leggere tu? Non quello che vuoi, leggi. Ma forse anche quello di 20, quello di quando non c'è Terezin Stata, perché è anche molto interessante. Come ci sono date, sì. Io preferisco parlare in piedi. Clara giunse a Terezin Stata il 10 dicembre 1941, dopo uno scomodo viaggio notturno di 2-3 ore in treno, in vagoni troppo gremiti e senza riscaldamento. Un treno lunghissimo che trasportava 1000 persone. Erano sempre 1000, con pochissime eccezioni, gli ebrei trasferiti a Terezin Stata da Pilsen e da Praga. Da Pilsen, dove degli oltre 3.000 ebrei dell'anteguerra tornarono nemmeno la decima parte dopo la fine della guerra, da Pilsen ne furono inviati 1.000 il 18 gennaio 1942 e 1.000 il 22 gennaio 1942, da Praga 1.000 il 30 novembre 41, 1.000 il 4 dicembre 41, 1.000 il 10 dicembre 41, il treno di Clara, 1.000 il 14 dicembre 41, 1.000 il 17 dicembre 41, 1.000 il 30 gennaio 1942, 1.000 l'8 febbraio 1942, 1.000 il 12 febbraio 42, e poi 1.000, sempre 1.000, il 24 aprile 1942, il 28 aprile, il 7 maggio, il 12 maggio 42, il 15 maggio, il 20 giugno 42. Ma dove li prendevano tutti questi ebrei? Scusate, mi interrompo, proprio le mie bambine, io parlavo di 6 milioni, no? Con il fantasma, io ho una volta a settimana le mie bambine e i miei nipoti a pranzo, e mi dicevano, ma erano tutti in una città, 6 milioni, che loro hanno questo concetto della città con tanti abitanti. Allora avevo dovuto spiegare questa cosa che stai dicendo. Dove venivano tutte queste cifre? Sì, questi qui, queste sono cifre di Praga, e cioè persone raccolte, diciamo, dal circondario di Praga, ma poi c'erano altri treni partivano di Brno, altri da altre città, perciò non sono solo queste qui. Magari dopo possiamo anche dire qualche cifra, non mi ricordo se non voglio. Allora, come le radunavano, come organizzavano i trasporti, così precisi, così puntuali e cronometrici? Quindi, sempre nel 42, il 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 luglio, il 3 agosto e il 10 agosto. 3 di settembre 42, 1 in ottobre, 1 in novembre, 1 in dicembre. Poi dall'anno 43 la medicologia tedesca cominciava a vaccinare da Praga, a partire una volta 1021 e un'altra volta 838 persone, per arrivare ai 1056 deportati alla fine di gennaio del 1945. Adesso mi sembrava forse interessante, quello ritornando col primo che ho letto a proposito delle scarpe, dice avrebbe dovuto portare altre scarpe con sé, scarpe più robuste, più resistenti, non queste in pelle di marocchino con l'acciottolino tramato da un bottone tondo di navorio. Ma nella fretta della partenza aveva ammassato le prime cose che gli venivano in mano alcuni giorni di dicembre, ai primi giorni di dicembre del 1941, dei soldati tedeschi erano venuti ad avvertirla che lei, insieme ad altre 999 persone, era stata selezionata, scelta, per essere trasportata a un altro domicilio, per ricominciare una vita migliore in una nuova patria, ebrei tra ebrei, senza testimoni con l'altra popolazione, senza le occhiate dei piedi dei vicini, senza essere mandata a Svimbescia per portare a Münster la stella gialla, una nuova terra promessa, che avevano detto. E ci credevano chiaramente, tristemente ci credevano. Ecco. E poi, forse a proposito dei numeri, tu citi anche il numero di matricola che ha la vostra Clara, ne ha due diversi. Sì, uno è il trasporto da Praga a Theresienstadt e un altro da Theresienstadt a Riga, che è tutto controverso. Era, cioè, prima di quando venivano chiamato, i soldati tedeschi davano in mano alle persone chiamate una lista degli oggetti che dovevano pensare portare con sé. Era una lista crudele e perfetta, quella consegnata a Clara nel dicembre 1941, elaborata da persone che sapevano dell'atroce destino a cui lei andava incontro. Portata via da Praga, al collo un cartoncino come numero di trasporto, che ormai avrebbe sostituito il nome. Così Clara Beck, nata il 4 novembre 1904 a Pils, diventata Claire Beck-Loos per matrimonio con Adolf Loos, fu trasformata in un numero per poterla meglio controllare. Da Praga a Theresienstadt, Clara era consegnata dal numero L824. Da Theresienstadt fino nei fitti, nebulosi boschi di pini e presi di Riga, capitale della Lotta di Lettonia, del numero P785. Ecco. Io a questo punto lascerei posto a delle domande, se qualcuno di voi vuole chiedere, perché sennò continueremo a leggere, leggiamo questo libro, non è giusto, dovete leggere anche voi. Ecco, vuoi leggere ancora una parte? Mi sembra di sì, che c'è una cosa che forse sarebbe il caso di leggere, sì. Leggerei una parte della postazione in cui spiego un po' meglio come mi sono avvicinata a Clara. Allora, visito gli appartamenti restituiti, diciamo, da Adolf Loos e durante il mio soggiorno in terra ceca alloggiavo in campagna, ma tutti i giorni mi recavo con la macchina a Pils. La lunga via Rokitsanska, che va verso il centro della città e verso la cattedrale gotica che cercavo sempre all'orizzonte, passa in mezzo a due cimiteri, da un lato quello cristiano, aperto, arioso e colorato di fiori e corone sulle tombe, dall'altro quello ebraico, chiuso tra altri alberi, quasi nascosto. Un giorno parcheggiai la macchina davanti al cimitero ebraico, quello cosiddetto nuovo, istituito nel 1898, quando la comunità ebraica che la città aveva raggiunto una certa consistenza e altezza. E il cimitero usato ancora oggi, anche se la comunità dopo le persecuzioni durante la Seconda Guerra Mondiale si è molto ridotta. Andare verso l'ingresso per toccare il cancello, solo per vedere se era chiuso o aperto. Era aperto, non lontano dall'entrata, quindi seduto su una delle poche panchine, un signore anziano, con una candela di plastica in mano, come stesse pregando. Tornai alla macchina. Qualche giorno dopo entrai. Solo lo scricchiolio del cancello inferno, poi il silenzio, il smarrimento. Io sola, in mezzo a centinaia di tombe, tombe basse con le pietre invase dell'erba, una selva di tombe alte, lucenti di marmo, qualche candela ormai spenta, qualche fiore in plastica, qualche ciottolo di saluto, di offerte. Come gli ebrei usano mettere sulle tombe dei loro defunti. Iscrizioni in ebraico, in tedesco, in ceco. E nomi come Hirsch, Eisner, Weiner, Brummel e Zeller, Tausig, Nassau, Lichtenstein, Beck, i clienti di Adolf Loos. Molti erano morti nel 42, 43, 44, 45, negli anni della persecuzione. Il luogo di morte ricorrente era Auschwitz. Cominciavo a raccogliere materiale per un libro su Gladbeck, non una biografia nel senso tradizionale, ma per i testi, come tessere di un puzzle, per delineare quasi in appunto, appunti la sua vita, dalla nascita a Pilsen alla morte a Riga. Continuavo ad andare al cimitero ebraico di Pilsen. Camminavo tra le tombe e le fotografavo con esitazione e retrosia, come stessi entrando in un mondo che non era mio, come stessi violando la pace dei defunti non miei. Poi un giorno vidi la lapide che cercavo: Eva Schanzer 4-4-1903 19-6-38 8 Beck, 21 maggio, mai 1868, 22 giugno 1936. Era la tomba della sorella e del padre di Clara. Su un lato della lapide, i parenti americani di Clara avevano aggiunto, in un tempo più recente, un'altra lastra. Riporta, oltre al nome di Olga Beck-Heigl, la madre, anche quello di Clara Beck-Loos, la mia Clara Beck. Ma lei non è sepolta. Grazie, grazie.